versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 45 secondi, qui in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Anche la trasmissione di oggi nasce da un ascoltatore che si è proposto, e quindi continuate a mandarci osservazioni. Stamattina ne è arrivata una che mi ha fatto veramente girare, bollire il sangue, e faremo sicuramente la trasmissione per un non vedente che si trova a dover essere spiazzato per via di una decisione fiscale del governo. E comunque faremo una trasmissione tra pochi giorni e quindi ve la riproporrò. Ci sono tante lettere di quelle che mandate che effettivamente ogni volta mi fanno pensare a come noi dovremmo, dico l'informazione in generale, dare prioritariamente retta poi a chi sta in basso e vive in termini di disagio vero questa crisi italiana. Comunque, detto tutto questo, per intervenire oggi vi dico subito il tema e vi presento il nostro ospite. 800 24 00 24, come sempre, per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Oggi la cosa che vi chiedo io è questa: nella vostra opinione, adesso richiamerò qualche dato e poi ne parleremo con il nostro ospite, come si fa secondo voi a breve? Quale strada secondo voi seguire per tentare di mettere più soldi in tasca agli italiani, senza di cui non riprende il consumo, e senza consumi in realtà sono i 7 decimi del PIL che non si rimettono in movimento, e continueremo ad avere, come dicono tutte le previsioni, una crescita bassissima, tranne Cipro, i più bassi in Europa anche nel 2015 e 2016. Perché il punto è questo: naturalmente le imprese sottolineano molto che il traino della crescita breve è l'export, benissimo, tutto vero, però l'export da solo, cioè le 180.000 imprese italiane che sono coinvolte dall'esportazione di quote del fatturato tra il 15% a salire, quello non basta a rifarci crescere abbastanza. Quando significa crescere abbastanza, ricordiamo qualche cifra di quello che abbiamo alle spalle. A fine dell'anno scorso noi avevamo un PIL con 9 punti in meno rispetto al 2007, avevamo consumi con meno 8% rispetto al 2007, avevamo un andamento delle retribuzioni pro capite in quei 7 anni che abbiamo alle spalle di crisi che è stato inferiore all'andamento dell'indice dei prezzi in quei 7 anni, quindi ha perso anche l'andamento dei redditi in quegli anni, non ha ricostituito, è stata una delle voci che ha fatto scendere il reddito pro capite degli italiani, per quanto bassa fosse l'inflazione, perché in quei 7 anni le retribuzioni pro capite sono salite di meno dell'11%, mentre l'indice dei prezzi, pur salendo molto meno degli anni di ruggente inflazione italiana, è però salito del 12,3%. Allora, in questo quadro, la leva del meno fisco per far spendere di più non si può toccare, perché se ci va bene lo Stato non mette altre tasse. Ma ripeto, se ci va bene, perché come sapete, tra effetto della sentenza della Corte sulle pensioni, e ci sono una dozzina di miliardi pluriennali adesso da recuperare, che in qualche maniera bisognerà trovare. Uno, due, il no in arrivo dell'Unione Europea per la reverse charge sull'IVA, sono 700 milioni di buco da subito nel bilancio di quest'anno da coprire, e c'è una clausola di aumento IVA da luglio, una volta se non si trova un altro modo. Insomma, mettendo in fila tutto questo, scordatevi, per essere realisti, che siano meno tasse quelle che fanno muovere i consumi. Si potrebbe dire: più stipendi in tasca ai dipendenti, e già. Certo, però state attenti, siccome le imprese già pagano più tasse, i più retribuzioni in tasca, in netto, visto che abbiamo un cuneo fiscale pazzesco, ai dipendenti, si potrebbero trovare e dare, e chiedere, e anche a quel punto doverosamente dare, per non peggiorare ulteriormente la condizione delle imprese, il che significa star peggio tutti quanti, se ci fosse una produttività col segno più. Ma invece negli anni alle spalle noi l'abbiamo pure persa la produttività. Quindi più retribuzioni? La mia risposta a questa domanda è sì, più retribuzioni di produttività con una marea di contratti aziendali, cioè ciascuno si impegna con i sindacati o individualmente nell'impresa in cui sta a dire: cara impresa, noi ci impegniamo a dare turni, utilizzo degli impianti, tutto quello che volete voi, contrattiamo più produttività da subito, ma quella più produttività ci deve andare in tasca defiscalizzata. Certo, non si può pensare che tutta Italia si metta a fare contratti decentrati, quindi anche questo è un limite Però molti di voi potrebbero dire: è il momento che le imprese intacchino i loro margini e ci paghino di più, visto che così consumiamo di più. Prima ipotesi. Secondo, sulle pensioni, anche lì direi che l'effetto della sentenza della Corte è che devono pagare ancora di più quelli che la pensione non l'avranno oggi, quindi scordiamoci che si possano aumentare le pensioni. Come si esce in concreto da questa strettoia? Cioè dall'avere una quantità crescente non ridotta di risorse per alimentare i consumi interni. Sono curioso di sapere come la pensate, rispondendo a questa domanda all'800240024, e quali sono secondo voi le compatibilità da seguire. Date anche un occhio a quello che succede a livello internazionale. Avete visto che si è ripreso a ballare per via della Grecia, della crescita meno forte dell'America, della Gran Bretagna, quelli che vi dicevano che era tutto a posto per 2 anni grazie alla BCE, che noi siamo immuni da ogni contagio. Ecco, io vi diffido dal crederci. Vi ricordo solo questo dato: in 2 settimane il tasso di interesse sul decennale pubblico tedesco è cresciuto di un fattore 1000 in 2 settimane, cioè 2 settimane fa il rendimento sul mercato intraday, sul mercato secondario del Bund tedesco era di 0,05% e adesso è sopra il 5%. Allora, in un mercato così volatile, chiunque vi dica che è tutto a posto per i prossimi 2 anni, secondo me vi vende della droga. Ma questo lo dice questo numero che ho appena citato, e sto parlando del Bund tedesco, non di un titolo iperballerino. Ecco, questa è la condizione in cui siamo, ma questa domanda è centrale, perché dare una risposta a questa domanda, più consumi, significa fare muovere davvero l'economia italiana rispetto a questi 7 anni, non solo più export, in altre parole. Allora, per parlare di tutto questo, il nostro ospite si chiama Mauro Artibani. Mauro Artibani, chi lo conosce sui social sa che in questi anni ha alimentato un filone di pensiero. Lui si definisce un economaio, non un economista, cioè una specie di economista, però centrato su quello che avviene nelle botteghe. Per questo economaio, che fa un po' ridere, ma anche con Salomaio, ma l'autoironia è voluta da parte di Mauro Artibani, perché studiare l'economia dei consumi, e cioè mettere il consumatore al centro della macchina che può far crescere l'Italia, è il suo punto di vista. Quello che dice lui nelle cattedre di macroeconomia, di economia politica, di politica economica, non si insegna né si apprende. Allora, grazie di essere con noi questo pomeriggio a Mauro Artibani. Grazie a lei, Giannino. Lei mi offre una palla straordinaria, perché lei vuol sapere dove si nasconde il bandolo della matassa della crisi. No, io voglio sapere, siccome ho letto quello che lei ha scritto anche libri, eccetera, eccetera, però chi è in ascolto non la conosce, quindi lei deve innanzitutto presentarsi, dire da dove gli vengono queste idee, e poi sinteticamente, in 5-6 minuti, tentare di concentrare quali sono le sue ricette. Ci provo. Allora, sono Mauro Artibani, sono uno studioso dell'economia dei consumi, quell'economia che gli accademici non scorgono e che le facoltà di economia non insegnano. L'economia dei consumi si differenzia dall'economia della produzione per avere una strutturale sovraccapacità di offerta rispetto alla domanda. Detto questo, volevo andare a tentare di rintracciare quel bandolo della matassa della crisi. Sì. E per certi aspetti mi rifaccio a quello che diceva lei. Allora, prendo un dato, il dato è quello non mio, è quello del Centro Studi Confindustria, che riferisce che i redditi delle famiglie al 2013 ammontano a 1.303 miliardi di euro, la stessa cifra disponibile delle famiglie nel 1988. Eh già. Questo è il dato. Poi c'è un fatto: nell'arco di questi 25 anni un gigantesco aumento in volume e numero di merci si è riversato sul mercato. Sì. Quando si mettono assieme questi dettagli e si comprimono, ci si rende conto che ci si trova in una condizione impossibile. La sintetizzo con un tweet. I redditi erogati dalle imprese a chi lavora per produrre merci sono risultati insufficienti a smaltire quanto quel lavoro aveva prodotto. Questo blocca il meccanismo dello scambio e conferma quel che io dico, che da un lato si mostra un'offerta in eccesso e dall'altro una domanda in decesso. La crisi sta qui, al di là di tutte le aggiunte che si possono fare. la crisi sta qui e tocca a questo punto tentare concentrarsi per individuare quale sia il bandolo della matassa. Il bandolo della matassa, visto che ho poco tempo, lo individuo in un altro e lo propongo con un altro tweet. Lei converrà con me comunque che quando si verifica questo eccesso di offerte e decesso di domanda, la produttività dei fattori collassa, la produttività totale dei fattori collassa, e io in quei fattori ci inserisco anche il consumo, cosa che nell'economia non c'è. Della produzione non c'era. Non c'è. Allora, il tweet è questo: la crescita si fa con la spesa. Così viene generato reddito, quel reddito che serve a fare nuova spesa. Tocca allocare quelle risorse di reddito per remunerare chi con la spesa remunera. Appare criptico, rendo perfettamente conto. Capisce, sì, esattamente, quindi bisogna spiegarlo. Ma quando io parlo di riallocare quelle risorse di reddito, faccio riferimento ai 1.600 miliardi che, volente o no, è crisi o non crisi, attorno ai quali è il PIL italiano. Sì. Dentro questo 1.600 miliardi ci sono contenuti i profitti d'impresa, distinguendoli dagli utili d'impresa. Certo. Gli utili d'impresa si ottengono per la gestione dei fattori della produzione. I profitti d'impresa sono quella parte di remunero che l'impresa prende per compensare il rischio d'impresa. Allora, se noi siamo all'interno di un meccanismo circolare continuo e tutti gli agenti del ciclo sono in grado di svolgere completamente il proprio ruolo, non c'è rischio d'impresa. Quindi quelle parti di profitto che vengono, e quelle parti di profitto sono tutt'altro che minime, perché immagini che in ogni segmento della filiera qualcuno preleva profitto per remunerare il rischio d'impresa. Quindi stiamo parlando di cifre consistenti. Adesso tutto questo può apparire astratto. Anche perché la prima obiezione di un nostro ascoltatore con SMS dice: beh, non è che il rischio d'impresa è una cosa teorica, con la moria d'impresa che c'è stata in questi anni tra restrizione del credito, chi non ce l'ha fatta a pagare le tasse, eccetera, eccetera, il rischio d'impresa si è elevato, non si è abbassato. Ma anche perché c'era quello squilibrio che ha generato la crisi. Le imprese muoiono perché c'è quello squilibrio tra eccesso d'offerta e domanda in difetto, considerando che alla crescita i consumatori concorrono per il 60%, nel momento in cui quella spesa è in difetto si va in crisi. Infatti, questo è quando dico non basta l'export che traina, ce lo possiamo augurare nel migliore dei casi, ma quello non basta a far tornare la crescita italiana verso il 2% anno, per capire almeno come è così. Adesso, quel che ho detto può apparire astratto, millantamente teorico e quant'altro, ma invito gli ascoltatori a prendere atto che ci sono imprese che fanno esattamente quel che io sostengo, e se non sono imprese di poco conto. Remunerano nella fattispecie le risorse che il consumatore mette in campo nel proprio esercizio di spesa, e nella fattispecie sono il tempo, l'attenzione e l'ottimismo. Faccio l'elenco: IKEA, Commercia Mobili, con una filosofia di impresa che è fatta apposta per i consumatori. Rinuncia a porzioni di profitto, ottenendo un imparentabile vantaggio competitivo e utili. Vende mobili da smontare, chi li acquista impiega tempo per il montaggio, ne ricava il prezzo più basso sul mercato e rifocilla il potere d'acquisto. Quindi questo lo fa come esempio per dire: l'esempio IKEA dovrebbe essere esteso e adottato su vasta scala, perché questo libererebbe quote di profitto, minore per le imprese, che pure resterebbero col segno più nel loro conto economico, quindi non è che ci si chiede, si teorizza un'impresa che deve rinunciare a fare utili, però rinunciando a una quota di profitto, investendolo sulla soddisfazione e sul potere d'acquisto del cliente, l'esempio IKEA serve a capire che quella è una delle modalità essenziali per liberare risorse a favore del consumatore e quindi trasformarla in più spesa e più reddito per tutti. Corretta la sintesi? Sì. Esattamente. Allora ci dobbiamo fermare per 60 secondi e torniamo. Adesso abbiamo l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati qui in diretta. Oggi ci poniamo il problema di come si fa a smuovere con più risorse ai consumatori, quindi agli italiani, ecco, sapendo che le compatibilità sono molto complicate, con un ospite, Mauro Artibani, l'economaio, come dice lui, che dice: intanto c'è una quota di profitto che remunera il rischio di impresa che le imprese, moltissime di loro, potrebbero rinunciarvi per trasformarlo in soddisfazione, che quindi difende e estende le quote di mercato dell'impresa, ma soddisfazione e più reddito ai clienti, e significa più reddito e più crescita per tutti. Allora, prima di riprendere con Mauro Artibani, sintetizzo alcuni sms e poi arriviamo alle telefonate per farle commentare ad Artibani. Tra i vostri sms c'è chi dice, per esempio, sbloccare il limite di utilizzo del contante. C'è chi dice non dare più di 3.000 euro di stipendio ai dipendenti statali, e qui stiamo parlando dei grandi dirigenti, come sarei d'accordo, ma poi mi tirano le pietre, per così dire. Poi molti sms che dicono abbiamo bloccato persino la perequazione dei pensionati, su questo c'è la sentenza della Corte, come sapete l'abbiamo bloccata poi per 2 anni, però ricordatevi che noi ai giovani gli abbiamo cambiato il sistema delle pensioni e si scorderanno, visto che pagano loro i contributi alle pensioni in essere retributive, le pensioni retributive loro non le avranno, e nel frattempo abbiamo modificato la vita a milioni di italiani che stanno andando in pensione e gli abbiamo alzato l'asticella da un giorno all'altro con la riforma Fornero, quindi capite che per me è un po' inaccettabile che solo il problema della mancata perequazione per 2 anni delle pensioni superiori x volte al minimo sia il problema, perché tutto il resto ce lo dimentichiamo. Allora, detto questo, questi gli sms come categorie, non tutti, sentiamo un po' le vostre risposte con le telefonate. Iniziamo con Leonardo da Bari. Prego, Leonardo. Sono qua. Eccoci qua. La mia tesi è che i consumi non sostengono il consumo. Io penso che su questo non sai d'accordo né tu né il tuo ospite. I consumi non sostengono il consumo. Quindi l'unico modo per uscire non è comprare i consumi e dare più soldi, è esportare. Esportare. Leonardo, io ti devo bloccare qua perché si sente pochissimo quello che dici, cioè lo risintetizzo. Leonardo dice i consumi non sostengono i consumi, quindi la chiave è esportare. Sintetizzo, ma purtroppo la qualità del collegamento era pessima. Francesco da Massa, prego Francesco. Salve, saluto l'ospite e lei Giannino. Sì. La questione sostanzialmente è che noi siamo in un sistema che è un sistema globale. Sì, è vero, i consumi sono comunque una componente interna, ma la componente interna per essere sollecitata in questo momento l'export non basta, lo diceva lei poco fa. Quindi tutto quello che ci siamo detti è vero, compresi gli SMS, però le macro categorie riguardano la spesa pubblica e quindi la riallocazione, secondo il mio punto di vista, oltre che alla tassazione, oltre che a una grandissima quota di economia criminale al nero, che chiaramente sottrae risorse a quei consumi che sono una variabile interna, ma che comunque è collegata a un sistema che con l'export non ce la fa, perché sostanzialmente noi abbiamo preso una batosta di 7 anni sui denti e quindi tra disoccupati, scarsa produttività esatto. debito non riusciamo a compensare. Però lei dice oltre che all'economia in nero eccetera c'è anche un problema di ridimensionare la spesa pubblica, corretta la sintesi? Sì, ma se noi vediamo il sistema inserito all'interno di un mondo globale non possiamo estrarlo da questo sistema. No, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Non siamo un mondo a parte, Francesco. Altro paradosso paradosso. Capite che il governo che oggi ruggisce contro i privati che non investono abbastanza, abbiamo perso 27 punti di investimento in 7 anni, quando il governo che ha tassato i redditi da capitale più di 2 volte i bot, a me scappa un po' da ridere, perché ci sono degli effetti quando poi uno aumenta le aliquote, capite? Non è che poi può dire ripartono gli investimenti privati, perché siamo al 26% rispetto al 12,5% del bot i redditi da capitale, c'è la patrimonialina dello 0,2%, c'è la Tobin Tax eccetera, e gli investimenti partono più lenti dopo che hai alzato le tasse su questo. Però questo è solo un esempio di paradosso. Giorgio da Padova, prego Giorgio. Buongiorno Giannino, intanto complimenti a lei per le sue trasmissioni. Grazie. E un saluto anche all'ospite. Sì. Niente, la sua domanda mi ha dato l'occasione di chiedere quello che nella mia ingenuità ritengo essere una possibile soluzione, e cioè che secondo me per aumentare i consumi e mettere nello stesso tempo più soldi nelle tasche degli italiani basterebbe permettere la detrazione di una parte dell'IVA nel 7,30. Questo comporterebbe, questo secondo me è a costo zero, perché le spese per sa che l'Agenzia delle Entrate non la pensano così. Io potrei pensarla così, ma l'Agenzia delle Entrate non la pensa come lei. Però è evidente, voglio dire, almeno per chi si trova a dover pagare l'IVA, l'effetto di quello che lei dice. E certamente ci sarebbe un bel po' di reddito disponibile. Naturalmente bisognerebbe vedere come congegnare, quanta parte, su quali tipi di spese. Però certo, quella è una fiscalità proattiva, non c'è dubbio. Vittorio da Genova, prego Vittorio. Pronto, buonasera. Volevo, la mia opinione è quella che bisogna fare in modo che il nero cominci a girare, perché il nero c'è altro sempre, che ci sarà sempre. Quindi, però, se io faccio un esempio, il mio meccanico aveva dichiarato 30.000 euro e l'Agenzia delle Entrate gli ha detto devi dichiarare almeno 36.000, dammi la differenza di tasse su questo importo. Forse era meglio dire dammene 24.000, che ti metto in regola e col resto facciamo girare. No, secondo me il meglio era dirgli: senti, tu dichiari 36.000 euro, anche se guadagni 100.000 perché lavori giorno e notte, sabato e domenica, quando vuoi, quei soldi in più spenditeli. Esatto, va bene. Allora io devo chiedere scusa a Domenico della provincia di Teramo, Giuseppe dalla Spezia e tantissimi altri, perché voglio e devo tornare da Mauro Artibani per fargli concludere le sue discussioni. Ha fatto un esempio, l'IKEA. Oltre a questo che cosa? L'IKEA remunera il tempo, che è una risorsa scarsa che i consumatori mettono in campo. Le televisioni commerciali, così come le free press, remunerano attenzione, altrettanta risorsa scarsa. Ottengo informazione di intrattenimento 24 ore su 24 dando la mia attenzione alle televisioni commerciali, così come alle free press. E anche in quel caso bisognerebbe trovare un meccanismo di remunerazione per il consumatore, così dire. Allora, io spero di avervi incuriosito per le tesi di Mauro Artibani, che come avete capito non sono bislacche. Io non ne condivido tutti gli esempi, però sono una riflessione approfondita che mette al centro il problema del consumo e del reddito nel nostro paese. E questa è la cosa che secondo me persino Confindustria sbaglia a non fare. Io per il momento mi fermo qua con Mauro Artibani, che però ricoinvolgerò in altre puntate per farvelo ascoltare. E intanto continuate con la 24 appuntamento come domani.